Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. È giovedì 26 dicembre 2013 e questa è la 138esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Il Natale è passato, ma per i più fortunati di noi le feste continuano. Augurandovi un periodo festivo sereno, stavolta vi diamo conto di una manifestazione contro gli allevamenti di visoni che si è tenuta sabato scorso, 21 dicembre 2013, a Modena. Arrivando in Largo Sant'Agostino, luogo di partenza del corteo di sabato 21 dicembre contro gli allevamenti di visoni a Modena, viene da domandarsi: ma dove sarà quell'83% degli italiani che secondo i sondaggi sono contrari a questa forma di crudeltà? Sì, perché se, citando lo slogan della manifestazione, sono 200.000 i motivi per dire no, pari al numero dei visoni scuoiati ogni anno in Italia per fare pellicce, al corteo si potevano contare invece soltanto 200 partecipanti o al più 300. Peccato. Non solo perché la manifestazione era a carattere nazionale ed erano stati organizzati pullman da varie città, ma anche perché Modena ha rischiato, e il rischio c'è ancora, di diventare la provincia con l'allevamento di visoni più grande d'Italia, con il progetto della ditta Mavica, la Portile, che si aggiungerebbe a quello di Fossoli, che già ne imprigiona circa 10.000. È quello che ha spiegato Simone Montuschi, portavoce di Essere Animali, alla partenza del corteo. Così ce n'è uno che spicca. Sia per chi vi è dietro al progetto, sia per la maestosità del progetto stesso. E questo spiega anche il perché siamo oggi qui a Modena, perché è stato presentato il progetto per un allevamento di visoni in località Portile, in una frazione qui a sud di Modena, dalla ditta Mavical, che è una ditta già proprietaria di un allevamento di visoni in provincia di Parma, e tra i cui proprietari, nonché nel presidente del consiglio di amministrazione, vi è un certo Stefano Boccù, figlio del presidente AIAV, che è l'associazione italiana allevatori visone, la principale associazione di categoria che difende questa pratica crudele verso gli animali. Questo progetto è un po' diventato il simbolo della nostra campagna perché, come dicevo, è maestoso, vorrebbe rinchiudere addirittura 40.000 visoni e diventare così l'allevamento più grande d'Italia. Appena abbiamo saputo di questo progetto abbiamo lanciato una mobilitazione online che in poco tempo ha raggiunto 14.000 firme. Questo ha fatto sì che la ditta ritirasse sin da subito il progetto, ma potrebbe ripresentarlo in un secondo momento. E quindi siamo qui oggi, oltre che per spingere le istituzioni nazionali ad approvare una proposta di legge che vieti in Italia questa pratica, anche come monito verso le istituzioni locali, affinché il Comune di Modena faccia il possibile per vietare questo allevamento, per vietare una pratica che è indifendibile, dal punto di vista etico è indifendibile. Perché è indifendibile? Abbiamo cercato di mostrarlo con un'investigazione che abbiamo diffuso all'inizio di quest'anno e con cui è stata lanciata questa campagna Visoni Liberi. Siamo entrati negli allevamenti di visoni italiani con le telecamere, con le macchine fotografiche, per documentare le condizioni di questi animali. Abbiamo visto delle cose veramente terribili, delle cose indescrivibili. Abbiamo visto animali soggetti a comportamenti stereotipati, animali feriti, animali che ci morivano davanti agli occhi, animali vivi a fianco dei loro fratelli e delle loro sorelle in fin di vita, immagini terribili che penso che tutti quanti noi ci porteremo per molti anni nella nostra mente. E proprio anche dopo questa investigazione abbiamo deciso che non bastava diffondere queste immagini, bisognava fare di più, che potevamo ottenere di più, potevamo abolirli su tutto il territorio nazionale. Giovani, anziani e perfino bambini, al grido di animali liberi e libertà per tutti gli animali, il corteo ha attraversato le vie del centro storico di Modena, in un lungo anello dove ogni partecipante stringeva nelle mani la sagoma di un visone, come se a rivendicare il diritto alla vita e alla libertà fossero proprio loro, le vittime di questa strage, che ogni anno si perpetua sistematicamente nella stagione invernale. La pelliccia è solo crudeltà per tutti gli animali, libertà! Il maestoso, o sarebbe meglio dire mostruoso, progetto della ditta Mavica La Portile per ora almeno sembra essere bloccato. La palla però ora passa al comune di Modena, al quale gli attivisti chiedono di impegnarsi pubblicamente per scongiurare in maniera definitiva questo rischio. Sentiamo ancora Simone Montuschi. Sin da quando abbiamo saputo di questo progetto ci siamo mobilitati e grazie a una petizione online siamo riusciti in pochi giorni a raccogliere 14.000 firme. In seguito a questa mobilitazione la ditta ha momentaneamente ritirato il progetto, però è possibile che lo ripresenti in un qualunque momento. Quindi questa manifestazione vuole essere anche uno stimolo affinché l'amministrazione locale, il comune di Modena, veda quante persone sono contrarie a questa pratica e faccia tutto il possibile affinché non venga realizzato. La manifestazione comunque ha anche un carattere, diciamo, nazionale, infatti sia alla Camera che in Senato è già stata depositata una proposta di legge che vieterebbe su tutto il territorio nazionale l'allevamento di animali da pelliccia, e quindi siamo qui anche per lanciare un messaggio alle istituzioni nazionali. Da Modena a tutta Italia. Se è vero infatti che la maggior parte degli italiani è contraria agli allevamenti di animali da pelliccia e che questi ultimi sono già stati vietati in 6 paesi europei per motivi etici, è arrivato il momento che anche qui venga approvata una proposta di legge per vietare questa pratica crudele. Roberta Marino, inviata a Modena per Restiamo Animali. Siamo tutti randagi. Contro la legge che condanna a morte i cani randagi in Romania, contro la proposta di una legge analoga in Bosnia, contro la tentazione di tagliare i contributi ai canili che circola anche nel nostro paese, per finanziare chi si batte in favore dei randagi, la redazione di Restiamo Animali e il GATT, gruppo antispecista toscano, organizzano sabato 28 dicembre 2013 alla Casa del Popolo di Settignano una grande cena benefit a 15 euro che sarà anche un evento informativo. Ospiti via Skype e in persona Sara Turetta, Andrea Zanoni, il professor Luigi Lombardi Vallauri e tanti altri ancora. Il ricavato andrà all'associazione italo-rumena Save the Dogs, che in Romania sta salvando centinaia di cani, asini e altri animali. Per le prenotazioni scrivete a restiamoanimali@gmail.com. Perché siamo tutti randagi. Per la versione mattutina extra large di mezz'ora di Restiamo Animali, l'appuntamento è per domenica prossima, il 29 dicembre 2013, alle ore 12. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.